Sud, in che zona sei? Io sono braccio di Topolte, non mi sposto mai. non me lo ricordo, io sono ancora via Vittoria. Qua Sant'Orsola Nord, da. Allora siamo ultra vicini, vai. La mia antenna vedrà sicuramente la tua. Guarda adesso com'è la radio, aumentato, peggiorato, che è successo? Il segnale è aumentato di 10. La radio è sempre pessima. Guarda adesso, 1, 2, 3, la pepina fa il caffè. Da, possiamo accettarlo un pochino, da. Però se la migliori ancora la radio ancora meglio. Guarda adesso, ora la cipolla. No, scendi ancora, stai scendendo anche di potenza, vai, scendi ancora. E adesso 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Adesso è un bombo. Cappa. Stavo uscendo con pochi watt, capito? Me la compriva il watt. Ho visto brutto a mettere il watt, Emmy. Aspetta un secondo, che qua c'ho casino, aspetta. Vai, vai. Dani, ci sei? Sì, sì, dimmi. Vecchio. Calma, quindi così va bene, dai. Così sei perfetto, non c'hai distorsione di niente, sei perfetto. Perché stavo uscendo con un watt, capito? Calma, adesso gli ho messo 3. Lasciamo così, dai. Lascia così, non toccare niente, già va bene. Ma se devi spingere il watt, ti conviene andare a parlare fuori. Qua non conviene mettere il watt. Perché siamo vicini, capito? Io sarò dove abito, Sant'Orso, facciamo di fronte, capito? E in linea d'aria sei come può essere la palazzo a fianco. In banda CP, sì. Cava, ma abiti al palazzo dove c'è il bar sotto, o a fianco, e ci sono quelle antenne, e si vedono. No, quello lì è il latte dolce, no, è a Sant'Orsola Nord, giù a tutti. Cava, già ho capito, dai. Sì, sempre vicini siamo, dai. C'è uno che sta fischiando, chi è avanti? Non lo sento più. Va bene. Non mi ricordo però di aver già modulato con te. Tu sei una voce nuova, non me lo ricordo. Vabbè, mi sono assentato per qualche mese, ma... Cavagava. Va bene. Ah, c'è nessun altro qua? Dani? Dimmi. Ho detto, ma non c'è nessun altro qua. Per adesso ci siamo noi due. Penso che gli altri ci saranno spostati in un altro canale. Andiamo. Ascolta, guarda, da questo passaggio, 1, 2, 3... A questo passaggio, com'è? Meglio prima, sei sceso anche di radio. Aspetta che c'era il lecca-lecca, guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5. Sei sceso di volume radio, però il segnale è sempre lo stesso. Spinge di più l'altra radio, no? Questa qua è bassa, invece l'altra è un pochino più forte, non so che radio stai usando. Questo è l'87. L'87 della? Della Midland. Ah, il Midland 87, sì. Sì, adesso già ce l'ho presente. Invece l'altra, la prima che stavi usando, qual è? Questo è il 3009. Che è tutto un altro mondo. Un'altra Cuba, e questo spinge di più. No, ma è tutto un altro mondo di radio. Quello è un veicolare, questo qua non me lo ricordo se da base. È sempre veicolare. Sì, ma questo qua è meglio. Se lo mette in tasca l'altro. Cava, meglio così, dai. Sto facendo delle configurazioni, dei paragoni per sapere come l'antifona. Ogni tanto conviene a vedere se la radio ha la polvere oppure no. Si conferma. Già va bene. E che antenna stai usando? Un Energy 5 ottavi. Ah, con una 5 ottavi sì, con l'Energy. Cava. E si conferma. Aspetta che c'è mia figlia che vuole parlare con gli altri microfoni. E ogni tanto bisogna dargli un microfono, a Roma può rimane tranquilla. Se no mi stressa. No, invece qua è stato... Viene mio figlio e inizia a parlarmi e non si capisce più nulla. Eravate sei cosetta. Mi piace col microfono, tranquilla. Ma sì, Danilo che conosco io per caso. E quale Danilo conosci tu? Ma è la Furia, al Ferrovecchio. Eia. Allora ci conosciamo sì. A ricordarmi tutti un macello per me. Ma no, se ti ricordi veniva a prendere il ferro con l'L200. Il ferro con l'L200. Dimmi il nome del fabbro. No, venivo con Ennio, che scendevamo, facevi il corso a Porto Torres. Ah, sì, adesso ho capito. Adesso alla voce ho realizzato chi eri. Sì, adesso già ho capito. Che veniva a caricare con, cioè, con le 200 blu e grigio. Sì, faccio già me lo ricordo. Ancora lavorando, sai tu? No, ho smesso, Dani, ho smesso. Adesso si può dire che sono fermo, dai. Ma per questa epidemia che è successa sei fermo? No, se ti ricordi ero nelle ambulanze, ma sono uscito. Ah, ma invece a me mi hanno spostato da Viale Portatore a Daniela. Cioè dalle stelle alle stalle mi hanno impugnato. Cesso, ragà. Giù, diciamo, vicino alle CDA, l'altro posto. E dove ci sono le macchine? Dove demoliamo le macchine? Cazzo, allora, mia gazzina in Chivi. C'era meglio che alle Porto Torres, no? A voglia, ero più tranquillo, più rilassato. Invece qua sono tutta un'altra cosa. No, non ti riposi mai, perché devi fare anche il lavoro degli altri. No, io sono sceso, forse un annetto fa sono sceso da lì. Che ho preso delle putrelle e dei ferri a T per farmi il soppalco. A me mi hanno spostato, sono già 3 anni, quasi quattro sono. A settembre faccio, a settembre faccio 4 anni. E infatti sono sceso e non c'eri. Aspetta, Bianco mi sta squillando il telefono. Vai, già sono qua. E chi è? E chi sei? E Antonio sono, buonasera. Ciao Antonio, Danilo da questa parte. Ehi capo, sono tu di Danilo. Ciao. Ma non c'è nessuno oggi? E qui non nessuno siamo. Nessuno degli altri. Già sono entrati poco fa già. Sono entrati, erano fatto le bazzanta, così è. No, adesso ho fatto un po' poi, dopo l'ho chiuso. Da. Avranno... O si staranno guardando le partite. Capo, sì, sicuramente. Con l'ottantesimo minuto, così era. Naturalmente. E a voglia. La sigla casa che faceva, ogni aggasino che fazia, devi abbassare tutto il volume della televisione, ma intendi tranquillo. Già me lo ricordo già. Bambino quando c'era quella roba lì. Se avevi il volume normale, per ascoltare la televisione normale, come partiva quella sigla dovevi abbassare, torna nuovamente il volume. Perché era più alta la sigla che tutte quante il resto dei canali. Capa. Già. Non già me lo ricordo un po'. Negli anni 80, così. Sì, anni 80, forse anche i primi dei 90 era. C'era. Poi non c'era, non l'ho più visto, non ho più sentito niente. Questa qua. Questa qua era. Cato mio ragazzino che fa la ricicla. Sì. anni 80, inizio anni 90. Già me lo ricordo ancora. E poi c'era quel conduttore, come si chiama? Che non me lo ricordo più. Mi pare che è morto. È morto, però non me lo ricordo come si chiama. Forse Biscardi. Non mi viene adesso il nome. No, non me lo ricordo adesso. Comunque già me lo ricordo anche a lui. Cappa, erano anni che a vedere i Basidi ha tutto un colore particolare, cioè altri tempi. Avanti col brecco. Buonasera a tutti, doppio rum. Ciao doppio rum, Danilo da questa parte. Ciao Danilo, ho sentito, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Senti che cosa sta a fare, conduttori televisivi. Chi ciò che fa zia al 90° minuto. Non me lo ricordo anche. Troppi anni sono passati. Forse anche 90. 30 anni circa. Mi ricordo la musica, ma non mi ricordo chi era lui. Vabbè, sto bene. Via. Che regalo. No, stavo parlando con Sara, capito? Saluta Sara. Ti ha salutato. Avanti Danilo, solo voi ci siete. Sono io e Danilo, ma c'era anche Daniele, c'era. Cavagava. Ero soltanto che stamattina Daniele, stamattina sono andato a fare un giro. L'ho sentito, mi ha accompagnato con il dottore, sulla tavola, qui si è salita a Sassi. No, io non c'ero, stavo facendo roba. Cavagava. Cappa. E infatti non è entrato nessuno stamattina, c'è solo Daniele. Poi è entrato tutti, non può più stare. Lui dice, come mai stai facendo così in basso? Santiago 7, perché non sono a casa, sono in mano. Vabbè, non essendo in macchina, cioè essendo a casa è logico. Se sei a Pozzodorra, sei lontano. Attento, Paolo Valenti. Avanti. Buonasera, qui Paolo Valenti. Con chi ho l'occasione di parlare? Io che... Gigi D'Agostino. Siete smemorati. Non ti ricordate come si chiamava quello del 90° minuto? Non lo so perché sono passati molti anni, ma l'ha fatto anche Biscardi, l'ha fatto. No, Mareso l'ha fatto, Paolo Valenti e qualche altro anche. Cappa, cosa stava dicendo? Com'era la sigla, capito? Però non ci ricordavamo i personaggi, diciamo che quando uscia chissà faceva un macelloniedo di zia. Perché la musica è che si fa, se dobbiamo far sentire forte, è così, se no non otteniamo l'attenzione, no? Ciao Gianni! Ciao! Sto bene! Magari sì, poi chi lo sa, tutto bene sembra, vedremo. Va bene, dai. Avanti, Danilo, rientrato sì. Sì, io sono sempre qua io. No, mi stavo controllando un volmetro, un amperometro, che devo fare una cosa per lavoro. Stavo guardando se funzionava bene. E collegalo, l'amperometro, collegalo, e così ti dice la verità, se va bene o meno. No, lo stavo guardando perché ne ho un paio che li avevo bruciati, li avevo, mi si erano bruciati. Accidentalmente si sono spostati i fili l'uno con l'altro e hanno fatto scintilla. E adesso questo qua li ho tutti quanti belli separati, lo stavo controllando per se funzionava e ho visto che già va. E devo farmi una specie di tester per le batterie quando sono a lavoro, perché ogni volta dobbiamo fare un macello con i cosi, con i cavi, e rischiamo di far esplodere le batterie. Sì, allora quello già è facile. È facile quello, non è un problema. Metti a volt, metti 12 volt, si appunto, e controlla le batterie. Col l'amperometro è diverso il discorso, no, non li controlli così. L'amperometro deve caricare, deve mettere sotto carica, cioè sotto usaggio, perché sennò non lo puoi misurare. Vabbè, dai. Perché cosa ti serve? Per misurare la batteria, hai detto, quando stai lavorando. Non hanno, la vita non ne ha. Marcello non ha dei amperometri, dei voltometri, cioè. Sì, già ce li ha, ma ogni volta bisogna andare in ufficio a chiederli. E non a giugare, di fammi tutti quanti che si metri, pannuta. No, almeno ce l'abbiamo lì, dove smontiamo le macchine e basta. Poi quando servono batterie buone le mettiamo da una parte, quelle che non servono le spostiamo a buttare, almeno vengono a recuperare le che non servono, bruciate. Perché la volta scorsa serviva una batteria, l'abbiamo fatta con i cavi, ha scintillato forte, è andata a metterla nella macchina, non ha steso bannuta, proprio morta. Infatti ho detto, l'ha scintillato bene, l'ha provata anche lui, ha visto che scintillava, invece era la batteria che non serviva proprio. Beh certo, anche se si abbassa per dire di 2 volt, e cioè la tensione di un elemento, lo stesso non ce la fanno a girare il motore della macchina. Se non hai i 12 volt pieni, anzi generalmente quando è proprio carica dovrebbe avere anche di più, anche 14 volt. Poi chiaramente si abbassa. Sì, perché anche se ha 10 volt oppure 8 volt è lo stesso, oscilla, cioè scintilla sempre, anche di meno, anche se il volt sempre, e la ricarica c'ha, e dunque se fai il cortocircuito la scintilla la vedi sempre. Andrà bene, dai, dimmi una cosa. Voi all'interno del magazzino avete sempre una moto carrozzella a piaggio gialla, colore giallo? Qual è il 604, così era, con le tre ruote. Ehi, quella tra ruote, una piaggio, un'ape in poche parole, un'ape il colore giallo. No, l'abbiamo demolita l'anno scorso quella lì. Perché? Cos'è che ti occorre? No, a me non mi occorre niente. Perché quella era la mia, era. Era la mia che l'avevo rottamata alcuni anni fa. Per cui quando avevo smesso di lavorare. E sapevo che la stavate usando voi lì all'interno del coso, dell'azienda. Va bene, va bene. Sì, era una moto gialla. Con le sovrasponde eccetera, c'era tutto. Tardata, vabbè, la tacca ce l'avevo io, che è stata poi versata, è chiaro. Dunque no. Ma sapevo che la usavate voi lì all'interno dell'azienda per trasportare il ferrovecchio. Sì, la stavano usando. Poi l'hanno bloccata per un po' di tempo. Hanno provato a rimetterla in moto e non partiva più. Infatti abbiamo controllato la bobina che c'era sotto il sedile, abbiamo messo anche la batteria nuova, no, non voleva più partire. Sicuramente come gli hanno tolto il blocco dove inserisci la chiave. Ho capito. Io gliel'ho data completa proprio, c'era tutto distintamente. Per cui era funzionante al 100%, solo che io ormai non lo usavo più, perché perché avevo smesso l'attività, per cui cosa me ne facevo? Pagare l'assicurazione e il bollo non per niente, non mi serviva più. Allora l'ho demolita, cioè l'ho portata lì, anzi se la dico la verità siete venuti voi a prenderla. È venuta la macchina, se l'ha sotto casa, se l'ha caricata e se l'ha portata via. E poi io sono venuto lì a ritirare la documentazione, eccetera. Va bene, va bene. Avanti, bombolo! Cappa, quelli lì comunque se la vendevi ti faceva un profitto, perché la sono ricercate quelle moto. Lo so, ma c'era uno che la voleva, però la voleva senza farsi passaggio, no? Non mi butti il nome. Senza passare la vuoi te la regalo, però ti fa il passaggio. Niente da fare, ma non ne ho soldi. Allora io la rottamo, no? Non devo rischiare niente, capita. Cioè tu gliela lavi così da voi, si bigliava le contraddizioni e arrivavano a me. No, io ho detto te la regalo, te la prendi, però prima ti devi fare il passaggio per metà, se no niente da fare. Ma non io sono adesso, allora pazienza. Ha sbagliato, ha chiamato a Marchetto, sono venuti loro con quella macchina caratrice e se l'hanno portata via. Così ho fatto, quanto? E se avevi sul mercatino 600 euro te la prendevano, mi pare che l'avevo vista lì parcheggiata una volta, vedi la bottega, c'era nuova, La moto era nuova, era in buonissime condizioni, camminava bene, eccetera, mettevo 30-35 tavoli di pieno di bestia che pesavano oltre 6 quintali, 7 quintali, una cosa del genere, da portatore se salivo io con queste tavole tranquillamente. A manetta scendevo e a manetta salivo, sicché non è che scendevo lì a Libediazzi, dove c'era prima la strada legname. Facevo un carico, facevo e portavo sul materiale. Oppure quando facevo i lavori, quando erano finiti, finestre, porte, mobili, caricavo e consegnavo con quella moto. Ma ce l'avevo, l'ho tenuta quasi 40 anni, non è arrivato dentro la Rino. Però era sempre perfetta, sempre. D'altronde per me era un attrezzo da lavoro, no? Non è che la potevo trascurare, no? Qualche volta già udore, qualche greffa di bizzini sopra, ballando, sai, quando magari la lasciavo parcheggiata per qualche giorno, che non la usavo la macchina, e io non ho trovato un giorno, per una volta, una greffa di bambini lì sotto casa, tutti sopra, saltando, ballando sopra il cassone, appena che mi hanno visto sono tutti scappati. E vabbè, erano bambini, per cui va bene così, avanti io tu. Cappa, quella moto già era una potenza, già andava di sempre, ma tu hai avuto quella col manubrio, vero? Sì, quella col manubrio, sì. Poi ne ho avuto anche un'altra in contemporanea con quella, e ne avevo due, poi avevo l'altra, quella a quattro ruote, col volante. Però quella lì prima era di mio fratello, poi l'ha data a me, perché la tante era voi, perché c'era il cassone più lungo lì, no? Perché quella che avevo io, il cassone era quello corto, mentre invece quella a quattro ruote c'era il cassone almeno a 2 metri lungo, se non anche di più. E quella mi andava anche meglio, soprattutto quando caricavo tavoloni. E allora, però dopo un po' di tempo, a mio fratello gliel'ho restituita, perché nel frattempo si aveva aperto un negozio di bombole, si aveva aperto. Dopo un po' di tempo che stavo lavorando come bombolaio, e aveva anche lui la falegnameria, no? Così che ce l'aveva anche lui, il motocarro per quello, però il negozio ci rimaneva la moglie e lui andava a consegnare le bombole. L'hanno rubata e dopo l'ha trovata dopo quasi un mese sbattuta a un palo, tutta l'altra che c'ha, l'hanno rubata i ladri, no, magari da uno esatto che c'ha per quale motivo, questo sa, l'hanno trovata tutta lì praticamente distrutta, attaccata a un palo, e allora a quel momento l'hanno trovata anche lui. E vabbè, Gianni, ci sei? sì, ci sono. Quella moto ha fatto la studia. La moto quella gialla. Io già l'ho conosciuta. Ah beh sì, ho registrato il fischio. Sì, l'ho conosciuta. Ti ricordi che avevo portato anche, la moto a casa tua, la moto che ti avevo fatto, l'avevo portato con la moto. Più di una volta sono venuto a casa tua con la moto. Poi ti avevo portato qualcosa anche a casa di tua suocera, non mi ricordo, forse una lavatrice, qualcosa del genere. E vabbè, dai, comunque, ce l'ha fatta solo una volta. Ti ricordi di Sabato Le Branca, quando era lì in Viale Porto Torres all'inizio? Aveva dismesso l'antenna, la Mantova, cos'era, la Mantova 5 credo, la Mantova Turbo, adesso non me lo ricordo più. Siccome non è riuscito a smontarla completamente, l'aveva regalata a Natalino, se ricordo bene. L'ho piazzata, l'ho legata alla grabba, alla sovrafonde, e l'ho portata e piazzata l'antenna a Natalino, sua, dove abitava prima, a Firighedo. Quanto mi ha visto con questa antenna? Vabbè, comunque, è andata anche quella. E gli serviva molto, servito. E magari l'avresti anche venduta, c'è ragione a tu. Ma mettivi su subito, cos'è il genere, l'avresti venduta. Oramai era andato tutto in pensione, volevi far andare anche a Lira. Appunto, quella cosa mi interessava, questa. Ho regalato la Sega Nastro, figura di un poco, se pensavo a vendere il motocar, la cosa dovevo stare lì aspettando quando se la qualcuno la voleva. Poi, la svegliata che l'ho tammata e basta, non è che mi... Tanto cosa la regala babbo, 500-600 euro, tu mi dirai non sono da buttare, ma chissà per quanto tempo l'avrei dovuta tenere lì, magari avrei dovuto rinnovare l'assicurazione, ma sì, rottamo tutto, cosa me la futto, non è che mi servono 500 euro, ho capito già, è per quello che lo ho. Quando la volevo regalare a questo tipo, dice così mi faccio qualche viaggetto, mi faccio, sì, io te la regalo, prenda lì, la vieni, te la prendi, però vieni con l'assicurazione, se non te la faccio, cioè con la, come si chiama, con il passaggio di proprietà. Quando sei disponibile mi chiami, andiamo la Manica, in via Cagliari, facciamo il passaggio e tu la moto ce l'hai, senza darmi nemmeno un centesimo. Come la fa? Io gli chiamano i soldi, allora non ti posso fare niente, e i soldi non te li do io per fare il passaggio per prestare. La moto sì, la moto te la regalo, però i soldi per fare il passaggio non te li do, ti fungomolo. Avanti, chi era quel fischio? Non si fa più dal notaio. Ma quando la giornata amata io già si andava. Vabbè, si andava anche dalla... Io ero andato anche una volta lì in via Santa Polinare, c'era un'agenzia che faceva queste pratiche così, no, di compravendita, di mezzi, eccetera. Ero andato anche lì, adesso non mi ricordo per quale occasione, forse per un'altra, forse qualche altra macchina che avevo trovato, non me lo ricordo più. E via Santa Polinare, ce n'era uno, non so se c'è ancora. Praticavo, sì, anche io sono andato una volta. Appunto, sono andato lì, però non me lo ricordo, per cui no, vabbè comunque. Non avevo visto, ma io vedo, poi dopo un po' di tempo, se me la vedete da questa moto, ma che cosa, mi ha mai salvato, ma io te la voglio dare la moto, non l'hai compresa, ma tu sei abbastanza per vedere, io te non ti potevo dare, succedeva un incidente, una cosa, ma hai voglia, il destino, e poi ci andavo di mezzo io, e lì si dà lo sgombo, e allora, dice, pittavo lo sai, cosa mi sei dicendo, se vuoi sapere, avanti Danilo. Sì, vi stavo ascoltando e stavo aspettando che mi passavate la parola a me. No, adesso io chiudo e vado a mangiare, che domani mattina si rilavora. No, quella moto era la 602 e aveva il manubrio sempre in tubo, e aveva, se non sbaglio, il sedile anche quello più piccolo, non era da sportello a sportello, era appena appena più piccolo quel sedile. No, era, il sedile era a due posti, allora era un'altra moto, quella che stai dicendo tu, ma mia è la 501, la 501, non la 601, 501, di cilindrata 187, una cosa così, perché come sigla era 501, però era, in realtà il motore era 187 di cilindrata, ma era una potente, era veloce, veloce, molto veloce quella moto. Io l'ho tenuto per quasi 40 anni, ma era una... E poi scendevo a casa quando scendevo a pranzo, io lo sai, no, abitavo ai punti, da Sassari scendevo addirittura ai punti a manetta, tanto biglietto e tanto al vincolo andava, e mi faceva 75, mi faceva. A manetta scendevo e a manetta salivo, sempre, quando io andavo fuori da Sassari, fuori dalla città, sempre a manetta, e tanto più di che tanto lo camminava, per cui, e devo dire che me ne ha portato di bei lavori, capito? Milioni e milioni di lavori mi ha consegnato con quella. Figura di 40 anni di che l'ho tenuta di attività, ne avrò pure fatto porte, finestre e mobili, no? Sì, per cui è di legname, già ne è già rigato un po', via, mamma mia. Oltre ai favori che ho fatto anche degli amici. Vabbè, anche qualche cliente quando mi vedeva che andavo col coso, guardi che ho un mobile vecchio da buttare all'ecocentro, ma lo porta via, sì, non si preoccupi signora, allora, lo carichiamo, glielo porto via. E abitavo intanto la vicina dove ero io, all'ecocentro, sì che non mi costava nemmeno niente. E lei è sempre stato lì, dai, dove si butta al comune, le cose per il comune. Va bene, avanti già. Sì, non con la moto ce l'avevamo noi, sono, erano tanto veloci, ma erano potenti come vetture, avevano forza. Sì, a me me l'aveva venduta a Molito, me l'aveva venduta, no, l'officina Molito, per cui poi la moto era sempre a posto, se si rompeva un filo andavo subito da Giulio o da Vittorio, Giulio mi si è rotto un filo del cambio, per dire, poteva succedere, no? O la pressione magari si è allentata, andavo lì, portamela giù, porta, andavo lì e in pochi minuti me la mettevo a posto, ero di nuovo marciante al 100%. Avanti bombo. Cappa, abbiamo avuto i buoni noi ci moto, abbiamo avuto la Peccare il 703, e poi abbiamo avuto, cioè, anni prima avevamo avuto anche il Poker, ma è durato poco, e qualche cosa facevamo, le mettevamo mano anche noi. Quello lì non ne aveva miscelatore, è vero, devi fare tu. Sì, dopo che hanno eliminato il discorso della benzina, dovevo miscelare io. Vabbè, ma Giulio Molito, il meccanico, mi aveva dato un misuratore, mi aveva dato un test, dovevo questo, io quando mi devi mettere la miscela, la fai tu la miscela. Metti la benzina, per dire, quanto ne metti? 10 litri. Al 2% metti tanto di questo, c'era tutto segnato, era un miscelatore, una specie di bicchiere, no? Di tazzina, come te la vuoi chiamare. E c'erano tutte le misure, no? Sì, che a secondo della quantità di benzina che rifornivo ci mettevo l'olio. E dunque l'olio me lo forniva sempre Giulio stesso, allo stesso prezzo che lo pagava lui, no? Non c'era bisogno di andare a comprarlo nei negozi. Quando mi serviva Giulio l'olio per il motocarro, sì, subito me ne dava un litro alla volta, a voglia, andando a consumarlo, si passava un bel po' di tempo, a voglia di benzina che consumavo, così e miscelavo. Andava altri tempi, vabbè, tempi indimenticabili, si appena parlare poi dei mattoni e delle cose e delle motocarri di sabbia e di come si chiama, e di materiale edile che io quando stavo costruendo la casa era la guerra di un bombo, ya. Tutto quello che serviva, tutto con quel motocarro, era un grillo. vabbè, al di fuori naturalmente di quando avevo preso i blocchetti, perché i blocchetti ci voleva il camion, perché c'erano quantità enormi di blocchetti, e dunque ho dovuto, me l'ha portato l'impresa stesso, me l'ha portata. Ma tutto il resto, se arrivano per dire mattoni per pavimento, andavo, carregavo e mi facevo, portavo i mattoni per pavimento. Se arriva cemento, andavo, caricavo i sacchi di cemento e portavo in cantiere per far lavorare gli operai e così via. E vabbè, avanti Gianni. Vabbè, grazie per il consiglio, io sto andando a portare giù il cane, ci sentiamo. Vi auguro una continuazione, saluto anche Daniele che poco fa non mi hanno voluto rilasciare prima, che quindi non ho potuto salutarlo. A Davide, scusa, a Davide. Ciao Antonio, ciao Giulio, ciao a tutti gli amici che sono in ascolto. Io vado a portare giù il cane, dai, dove ti fa male. Ok, ciao, già, ciao. Ciao, ci sentiamo a domani, che domani se coincide. Buona nottata e buona cena quando la fai. E grazie per la chiacchieratina. Panico, mi sembra che è andato via, così è, dai, ancora ci sei, o avevi già chiuso? Sono andato a mangiare. Appunto. Ma l'aveva detto, me lo sono ricordato adesso, che aveva detto che stava chiudendo. Va bene, dai, avanti, a tu. Capo, ciao già, ci sentiamo. Che siamo toccarli, però sì, a manetta sì, però dopo un po' devi mollare, dovevi, perché c'avevo il vizio di, se pompavi troppo avevo il vizio di ingrapparsi, che sei morto. No, altro, mettevo la miscela, la facevo sempre, quando la compravo direttamente al fornitore la prendevo al 3 anziché al 2. Quantità di miscela di olio che mettevo era sempre al 3 praticamente, me l'aveva consigliato il meccanico. Se lui vedeva cosa andavo, a Tincallura andavo a Porto Torres a prendere il legno, perché era vicino a Porto Torres, alle Bedriazzi giù in fondo, c'era la strada legname lì, così mi trasero la guida, arrivi. Scendevo da Budi, passavo lì all'incrocio della morte, Batamona, no? E salivo lì, in quella salita verso i Bedriazzi. A Maretta andavo sempre, non è mai successo niente. E poi gli si bloccava e avviene l'amico mio che me la colzava, che problema c'era. Avanti, Antu. Ma sono di remoto, che soprattutto l'estate, io lo so perché dalle nostre. Ci devi a... Non è che non dovevi fare sempre sempre così, ogni tanto dovevi mollare, bum bum bum bum, poi li riprendevi, perché le nostre se facevi così ingreppava. No, non mi è mai successo tanto, assolutamente non mi è mai successo. Certo, quando arrivavi in croce è logico che devi rallentare, no, e devi anche scalare, che cosa va lì, no, e passavo in croce, è chiaro, no, quando trovavo il traffico è chiaro, però quando poi era libero tiravo il buco, non stavo lì a guardare niente, per me il tempo era denaro, per cui non è che era una velocità supersonica. Tu mi avrai detto, ma a 75 all'ora con quella moto è un bel, lo so, sarà anche quello, tutto quello che vuoi, ma non mi è successo niente, no, la trattavo con Teresdocca la moto, no, quando ci voleva una cosa la facevo, perché ripeto, per me era guetta la bialla, più o meno, guetta la bialla, guetta la serra circolare, per me quello lì era lo strumento da lavoro, e quello quasi non ce l'avessi avuto, di nari da vari calbuti in pendì, ad esempio per farmi portare materiale o per trasportare i lavori che facevo, a 50 euro, a 50 miglia o cantuila, a secondo del posto dove andavi, a colpo, devo immaginare, anche di là, alle volte portavo porte e facevo anche tre viaggi, secondo il numero di porte che facevo o di finestre, e dunque devo immaginare Cortina, mise via la moto, e lui mise via. Se prendeva un motocarro, intanto gli facevano un travaglio, prima di tutto, quelli del motocarro, quelli che sono parcheggiati lì, o in Porta di Mazzedo oppure a Santa Maria. E poi non era come età, quando andavi a che botta, che ancora prima di avere la moto, gli dicevo, devo fare un viaggio, e lo sarebbe buttato. Era tu besa, e anche devo andare, e non sai quanto voglio. Ma insomma, sono venuto io a cercare un viaggio, tutti gli altri domande, non bisogna fatica, mi dica tu devo e basta, cosa stai qui? E allora mi sono arrabbiato, sono andato e mi ho comprato la moto. Beh, però oggi non mangiare più a denaro, capito? E così ho fatto, e me l'ha mangiato Dio di denaro, di denaro, motocarretti. Perché poi se deve sempre dipendere da loro, un casino. Hai fatto bene a comprarti da una moto, hai pigliato un dettola. Tramite Murito, però, tramite Giulio Murito, il meccanico, no? Lui sì, lui infatti comprava sempre la tola, però tramite Murito, forse qualche piccola percentuale ce l'aveva, non lo so, ma a me non mi ha fatto pagare nulla di più di quanto costava. Io con lui siamo sempre grandi amici, per cui non faceva una riparazione, non mi vegliava niente. E lo stesso discorso, se serviva qualcosa a lui, non gli vegliavo niente io, no? Ma era un rapporto di amicizia che c'è ancora, nonostante che lui è in pensione adesso, io sono in pensione, e l'amicizia continua, ogni tanto ci sentiamo al telefono, eccetera. Per cui e così siamo come fratelli, e vai. Ne cucciavano allora che si morto, No, noi già ce l'abbiamo avuta, ne abbiamo avuta una anche modificata, che camminava un bel. Pure adesso basta quella moto, adesso abbiamo la strada che è più comodo. A chi, come lo osservavamo noi, sempre andente. Cioè, 24 ore su 24 sempre andando che sta morto. Quindi un bacia la prigione, bacia di un torace fasciato. Perché il problema dei bombolai, guardi, ad esempio, non mi toccano sempre pieno di bomboli. E dunque, invece io non è che abbia sempre bene. Io andavo a zero viaggio e da poi la moto era a carica. E dunque, è bello il discorso, ecco per il motivo dei bombolai, le moto li distruggono in questo modo. Soprattutto li fondi, quando le bombole, una telefonda, un colpo a mano, un colpo da bue, ecco le fondi. Andare a farsi benedire. Invece io no, andavo, facevo un viaggio e basta, era buio, magari era proprio a casa, la moto era sempre bionda, quattro volte da lì, tra e fa là, quattro volte, e se che, se vuoi immaginare, non è che la ritrovo grande usura che fazia. Certo, se da buio aveva del carro a 30 d'ora, andavo, me ne pigliavo e me ne arreglavo, ma era un viaggio che finiva in chibi, finiva, da buio magari si passava la chibi, prima di fare una sugare con pesanti, e così funzionava. Ecco una cosa dura la moto, ma i bombolai no, vabbè, l'occasione è piena di bombole. Ecco, la moto è sempre sotto il fuzzo, la lupia la prigione batti, no, a me non mi è successo un delitto. A me mi sono buiato un carro, lo vivo del giambo, mi sono buiato un carro, o lo vivo della prigione, magari mi si allentava, ma che succede, chissà. Il freno, nuda, tutto sempre a posto, tutto perfetto, no? Non mi succede mai niente, dite così, Antu, vai. Vabbè, ma noi non la trattavamo, ogni adì. Se che Claudio si sta trasferendo, ho sentito, cavolo, sono da un po' di giorni che non lo sento. Non lo so, sarà impegnato. E così, e cosa vuoi dire? Quando vai a un viaggio così, non è che sia il tuo grande lavoro che fa via. poi magari voi tra facendo prima la biglia una, poi la biglia l'altra, invece questa funzionava sempre con me, basta, no? Non la toccava mai nessuno, tanto, sicché pure questo vuol dire un bene, non è come te quando hai un'azienda che ci sono diversi massoni che la guidano, uno ha portato sempre con la matrice in mano, è un gaibo, non sa fare le macchine, non sa fare le guida fuori, eccetera. Però quando andavo su strada, facendo sulla guida buddi, tipo tre giro mio, era lisso, oppure mi era portatore quando volavo a casa o quando stavo, era lisso. Ho fatto 5 km, la buttia, sì, là, 6 km, non dirò io a casa, sono 6 km, no, è lì la vita grande. Sì, arrivo, un momento. Come mi hanno chiamato Marazzena, tu. Capito? Tu. Per cui non è questo grande logorio che aveva la moto, era abbastanza tranquilla. Va bene, Antonio, dai, io ti saluto, mi hanno chiamato per la cena, ascolto il finalino e poi ti saluto. Dai, ciao Antonio, ciao, grazie per la chiacchieratina, buona cena quando la farai, ciao. Capa, dai, no, non è molto Zanotti che sono Bubieno. Ok, ciao, ci risentiamo, buona cena. Ok, ciao Antonio, ci sentiamo, ciao. Capito, grazie. In modo barone.